riconnessione dei tessuti un po' pseudodistrutti da questa, com'è che l'hai definita, Fedra? Perché hai dato una definizione così un po' in positivo, no? Di questa particolare era, no, non mi ricordo. Diciamo che è un periodo particolare che ci invita ad un dialogo altrettanto particolare, che quindi ci permette di scoprire nuove pieghe nelle varie maglie delle comunicazioni sceniche e artistiche. Dico bene. La specialità di questo momento, diciamo. Comunque le coxoperle della Fedra, insomma, ricordarsele, povera te, vabbè. Infatti, io non avevo ancora iniziato a fare i miei appunti coxici, che ricordo sempre a tutti i nostri follower, saranno rilasciati alla fine dell'anno naturalmente scolastico, quindi a fine giugno. Ma a proposito, mi ricordo che nella puntata di Roberta Giallo tu eri Chiara Azzurro, e oggi che Chiara sei? No, oggi sono Chiara Azzurro per l'ultima puntata, dopodiché lascerò il posto a Chiara Blu, che è una new entry assoluta, perché noi entro, lo dico qui con te, sono molto orgogliosa di poter svelare a chi ci ha seguito questo succedersi di colori, che stiamo coprendo tutti i colori dello spettro per potermi ammantare di questo anonimato cromatico durante l'anno scolastico. Ok, faremo un coxo anche su questo, ovviamente a fine anno scolastico, ma adesso, scusate, bando le ciance, che quando siamo tra cox poi ci perdiamo a chiacchiere, ritorniamo nel vivo del 355esimo coxo. Passo con somma gioia la parola a Roberta e a Martina, alle quali chiedo di fare una breve presentazione del progetto che sta alle radici di Ecodanza, la compagnia di danza che è stata fondata ormai tanti anni fa. Sì, sono tanti anni. Proprio ieri guardavo, perché abbiamo rinnovato lo statuto, visto che adesso c'è la riforma del terzo settore, e siamo nati il 28 giugno del 1990, quindi veramente tanti anni, è abbastanza interessante. Quindi diciamo che se siamo comunque sopravvissuti questi 30 anni, possiamo sopravvivere anche a questo inizio di era pandemica. Certo che c'è bisogno di una bella trasformazione. E dunque, chi siamo? Noi siamo un'associazione culturale che appunto si occupa di formazione, di organizzazione e di produzione di eventi culturali legati al corpo, al movimento, alla danza e ultimamente al paesaggio, perché diciamo negli ultimi 3-4 anni è sorta in noi questa necessità di integrare fortemente il paesaggio e la natura all'interno del nostro pensiero, ed è anche qui continuiamo a produrre con molta gioia in questo spazio che è il Paleotto, che è un parco periferico della città, dove noi ci troviamo appunto in sintonia, sia perché siamo periferici e perché siamo in mezzo alla natura. Quindi questo è un po' quello che facciamo. Visto che siete in mezzo alla natura, ne approfitto per chiederti una cosa che non c'entra assolutamente con la danza, ma che magari si può raccordare. In questo periodo appunto di grande specialità esistenziale, molti residenti in città si sfogano andando a fare delle passeggiate sui colli, perché è l'unica cosa che ci è preclusa. C'è da suggerire un itinerario tipo trekking che da Piazza Maggiore arriva direttamente da voi a piedi al Parco del Paleotto? Allora, proprio da Piazza Maggiore non lo so, però so che c'è un bellissimo percorso e che presto sarà anche, diciamo, sede di un progetto, ma non svelo troppo perché è ancora proprio nei nostri pensieri, che andrà a collegare un po' gli spazi culturali che ci sono nei colli bolognesi. Quindi, cioè, ed è un percorso abbastanza lungo e che quindi potrà appunto, diciamo, partire dai 300 scalini, tanto per svelarvi i nostri partner, passare per Fieniero e Flu, Pablo e arrivare a Parco del Paleotto. Quindi ci sono dei percorsi molto interessanti da fare su queste colline. Già solo per arrivare da noi non c'è bisogno di prendere l'auto da Piazza Maggiore, ma si prende il 13. Si termina al capolinea del Ponte del Savena e si fa un bellissimo percorso a piedi lungo il fiume e si arriva dentro al Paleotto 11. E quindi per noi quello sarà il sentiero dei Camille, in onore al pensiero fortissimo di Donna Haraway, che sta alle basi di tutte le nostre azioni. E quindi vi percorrete il sentiero di Camille e arrivate da noi. Beh, direi che sei riuscita a toccare tutti i miei amori, così il trekking, Donna Haraway, veramente mi rendi felice e non vedo l'ora di incamminarmi. Thank you. riprendiamo il discorso invece per entrare un po' più nel merito. Io so di progetti che sono già stati fatti anche nei mesi invernali e che in qualche modo erano proprio risposte dialoganti alle circostanze restrittive. Chi me ne parla? Io ti anticipo un po', poi lascio parola a Martina. Ti anticipo dicendo che ci siamo comportati in maniera differente nel primo lockdown rispetto a questo secondo. Penso che sia interessante appunto da raccontare. Per noi il primo lockdown, forse perché è arrivato così all'improvviso e ci ha spiazzato tantissimo, e io personalmente ho sentito una grandissima necessità di stare a fianco ai miei collaboratori, ai miei studenti e ai miei associati, e quindi mi sono fatta in quattro per continuare a proporre attività corporee online, a proporre attività di qualsiasi tipo online. Abbiamo creato dei percorsi anche di scrittura condivisa, sempre online, che sono andati a finire all'interno di un quaderno che abbiamo stampato a giugno dell'anno scorso, che raccoglie tutta questa esperienza del primo lockdown. Di tutto quello che ci si scambiava sulla rete. In questo secondo momento di restrizioni non ci siamo comportati nello stesso modo, anzi non abbiamo proprio proposto nulla di pratico online, in quanto sappiamo benissimo che quello che passa attraverso la relazione fisica, della presenza, non è sostituibile. E quindi abbiamo pensato di allargare la nostra capacità produttiva come compagnia, visto che questo ci è stato permesso. Cioè, fortunatamente le compagnie hanno potuto in questo periodo continuare a produrre, e quindi diciamo tutta la nostra energia per mantenere il dialogo con i nostri associati e col pubblico che normalmente ci segue è andato da quella parte. Abbiamo prodotto molto, utilizzando i linguaggi ovviamente della rete, che ci hanno permesso di mantenere un dialogo. Quindi ne racconto solo uno, poi passo a Martina per raccontare gli altri. Abbiamo e stiamo ancora producendo delle serate di composizione istantanea tra parola, musica e danza. Queste serate vengono ovviamente registrate dentro a Paleotto 11, dentro al centro culturale, vengono proiettate all'esterno della casa su un paio di schermi, in modo che la gente possa comunque, passeggiando, percepire quello che accade dentro allo spazio, che purtroppo a loro non è concesso in questo momento entrare. E il giorno successivo viene messo online, e quindi con un piccolo contributo che chiediamo possono avere il link e vedere le nostre produzioni. E questo per noi è stato il modo anche di continuare appunto a lavorare sul corpo con una compagnia allargata in questo momento, e quindi per noi è stato un grande... una grande ancora per poter continuare a sentirci in relazione non solo fra di noi ma anche con il pubblico che ha continuato a seguirci. Sì, mi aggrego così a questa fine, ma non proprio. E, effettivamente il comportamento dell'ultima parte, dell'ultimo periodo appunto di lockdown o comunque di zone di vari colori, l'abbiamo gestito molto diversamente, ma abbiamo anche comunque coinvolto, quindi è stato possibile, le persone e i nostri, diciamo, associati a delle attività in esterno, quindi diciamo che abbiamo cercato in questo caso di prediligere anche il lavoro in presenza finché temperature e norme ce l'hanno consentito. Poi ci siamo spostate di più appunto sulla parte produttiva, come diceva giustamente Roberta, con queste eventi di improvvisazione e composizione istantanea, e anche con dei piccoli delle piccole raccolte, come è stato anche Climax durante il periodo, diciamo, natalizio, comunque attorno alla fine, il cambio d'anno, ecco. E attualmente stiamo portando avanti anche una serie di progetti partecipativi che cercano ancora di più un coinvolgimento della comunità o comunque un dare voce ai corpi della comunità che in questo momento sentiamo piuttosto negati per una serie appunto di motivi che tutti sappiamo. Abbiamo quindi realizzato questo progetto che si chiama Sottopelle. E a questo punto, lasciando un po' di suspense, perché abbiamo cominciato un po' a intravedere quelli che sono i temi e i nomi di alcuni di questi progetti, e io inviterei il pubblico ad abbracciare ed accogliere le sacre pubblicità delle 7:30 e ci ritroviamo poi nella seconda parte del 355esimo corso. Start to roar, the boys all go to hell, and the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tango till they're sore. They take apart their nightmares and leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks are better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Sure they play my theme song, I guess daisies will have to do. And get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig, kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better from a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed. All in calico, the color of a doll. Wave that flag on Cadillac Day, skillet on the wall. Cut me a switch or hold your breath until the sun goes down. I'll write my name upon the hood, send me off to another town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stair. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed. Thank you. coxo spaziale. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. Eccoci di nuovo sulle frequenze di Radio Città Fujiko per la seconda parte del 355esimo coxo, che vede come alla co-conduzione tutta rosa Chiara Azzurro e Fedra Boscaro, le due coxe de no altri, e come super mega galattiche ospitesse altre due meravigliose donne, due danzatrici, Roberta Zerbini e Martina Del Prete, che ci stanno raccontando possibilità di risposta in dialogo alle limitazioni che noi tutti conosciamo e che sono intercorse da un anno a questa parte, e per quanto concerne la creazione per la scena dal vivo. E infatti Roberta e Martina sono due danzatrici, Roberta in particolare è anche la direttrice della compagnia Ecodanza, attiva a Bologna da tanti anni, abbiamo visto che è nata nel 90, e in questo particolare momento Martina Del Prete ci racconterà di un progetto che è partito da qualche tempo e che si chiama Sottopelle. Esatto, è un nuovo progetto che da un po' di mesi come Ecodanza stiamo portando avanti, perché ci siamo resi conto che in questo momento ovviamente il corpo è uno dei temi più dimenticati, o comunque un po' dimenticato, e quindi ci siamo abbiamo pensato di arrivare alle persone facendo una domanda e chiedendo effettivamente cosa nasce o cosa chiede il corpo in questo momento appunto delicato e particolare. E da qui abbiamo pensato di raccogliere una serie di audio che ancora, insomma, stiamo raccogliendo, ancora è aperta la call alla comunità, brevi audio che possano raccogliere appunto dei pensieri del corpo, delle necessità del corpo, e che noi appunto raccogliamo e poi appunto cerchiamo di rielaborare con delle tracce audio. Raccontami un pochino come funziona, come si articola questa chiamata, che siete su delle piattaforme, immagino, o vi rivolgete solo ai vostri associati? No, la chiamata è per tutti quanti, per tutti i corpi della comunità, e riceviamo degli audio dal semplici messaggi WhatsApp che poi appunto noi, quindi al nostro numero di riferimento, che magari dopo ricordandolo sotto lo dirò, e quindi poi da qui li raccogliamo e li rielaboriamo appunto per creare delle tracce che possono essere messe a disposizione delle persone che vengono a trovarci qua al Paleotto e ascoltarle durante la camminata, insomma, per il parco. Bella questa cosa, e posso anche inserire questo numero che ci darai negli appunti, lo posso divulgare così senza limiti di sorta? Sì, assolutamente. Sì. È il numero dell'associazione, che è il 370-366-4343. Io ho appuntato tutto e naturalmente lo proveremo anche domani sul blog di www.coxospaziale.blogspot.com. Una volta che lo impari una volta non lo scordi più. Ma Roberta, prego. No, perché mi piaceva sottolineare che questo progetto Sottopelle non ha, diciamo, una definizione di fine, nel senso non ha un termine. Perché non ha un termine? Perché durante la raccolta delle prime tracce che ci sono arrivate dalla cittadinanza, sono arrivate anche delle immagini della loro pelle, in maniera quasi spontanea. E quindi abbiamo pensato che avrà uno step successivo questo progetto, non si fermerà all'audio, non si fermerà alle parole che nascono dal corpo, che già sono molto difficili, difficilmente le persone parlano e riescono a trovare le parole del corpo, quindi anche quello è un allenamento. molto importante, perché il corpo ha un suo linguaggio, quindi va allenato il linguaggio del corpo. Dopodiché arriverà la seconda parte, che sarà appunto le immagini del corpo, le nostre pelli, la scrittura, la tessitura della pelle. E quindi pensiamo nell'estate di elaborare poi una mostra fotografica che arriverà più o meno a ottobre. Quindi è un progetto abbastanza lungo, che cerca di coinvolgere la comunità e di restituirlo alla comunità, soprattutto del parco, perché vogliamo che questo parco diventi un giardino culturale. Quindi che ogni passeggiata che il cittadino si fa al Paleotto abbia la possibilità di fare una passeggiata leggermente diversa che in un altro parco, ok? Perché ha questo valore aggiunto, quindi viene qua, si prende il link, se lo scarica e mentre cammina può ascoltare questa proposta, oppure mentre cammina può vedersi l'improvvisazione proiettata all'esterno della casa. Cioè vorremmo veramente far dialogare lo spazio interno e la progettualità interna dell'associazione con la frequentazione libera del parco. E questo... Bella, bella questa cosa, scusa Fedra. Ah no, prego, se ti cedo pure la parola, intervengo dopo. No, io ero curiosa di sapere se c'è modo di avere una piccola anticipazione audio per la radio, ma non so se poi dopo facciamo spoiler. Certo, assolutamente, no, anche perché adesso abbiamo già editato direi tre puntate, tre piccoli... regali che abbiamo fatto alla cittadinanza, quindi siamo molto contenti, no? Assolutamente, ne diamo un pezzetto per mettere in onda senza problemi. Never was a cornflake girl, thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Oh, honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword. Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. They must have paid her a nice price, she's putting on her string be love. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Thank you. ragazzi riparleremo di Sottopelle con delle esemplificazioni audio di questo progetto in divenire che mi ricollego al mio intervento di prima. In realtà nel sentirtene parlare mi ha ricordato quella che riflette in modo molto chiaro quella che è proprio anche la progettualità e il vostro modo di dialogare e di creare come associazione culturale, ovvero nel vostro lavoro si respira sempre molto forte una dimensione collettiva che spesso spinge anche al dialogo e allo sviluppo di una coscienza e condivisione di temi tra le persone che insomma vi seguono e non solo, che io trovo estremamente etico e mi fa apprezzare e stimare ancora di più la vostra progettualità. Ti ringrazio di questa domanda perché alla quale tengo moltissimo. Sì, siamo un'associazione culturale reale, nel senso che si parla molto in questo momento anche delle forme giuridiche del terzo settore e quindi l'associazione culturale crea bellezza e cultura, a differenza magari, non so, di una cooperativa che crea lavoro. Okay. Noi veramente cerchiamo di fare questo, cioè siamo una decina di donne e anche questo per noi è un valore importante, riferendomi sempre ancora al pensiero della Haraway e di tante altre. Siamo una decina di donne che veramente costantemente cercano di tessere reti, relazioni, fili che possono aiutare ad avere sguardi altri, un po' appunto periferici, marginali, come magari è anche la nostra sede, ma che questo, almeno in questo momento di pandemia, ci ha dato a noi una grande forza e quindi siamo convinti che questo modo di lavorare insieme, condividendo dall'inizio alla fine del processo, per quanto io possa essere il presidente dell'associazione da 30 anni, ma non è quello, questa comunità cambia e muta nello spazio e nel tempo in una maniera secondo me molto fertile e quindi ringrazio sempre tantissimo le persone che contribuiscono e che si intersecano con noi anche solo per qualche momento della loro vita, come magari è stato anche con te, Federa. Ti ringrazio molto di quello che hai portato in alcuni momenti della tua vita dentro di noi. E poi mi viene proprio a pensare, mi viene da pensare che questo fosse in nuce già dall'inizio, poiché quello di cui stai parlando è un ecosistema culturale che è un po' nell'eco di danza che accompagna tutte le vostre produzioni. Non mi importa di niente, non mi importa più di te. Faccio fuori nostalgia e dolore e riparto da me. Di te non resta più niente, nonno, che di te non resta più niente, neanche le parole. Si sono come sciolte al sole di quel 5 di luglio. Virginità dei pensieri e delle azioni libererà e non mancherò di testimoniare la bellezza delle stagioni. Ora che ho nitida, ora che ho nitida la visione delle cose, ora che sono finalmente tornata in me, in me. Vado incontro al deserto, vado incontro a un'oasi, la mia sete comincia a scemare, il cuore rinviene di te. Dei pensieri e delle azioni libera e non mancherò di testimoniare la bellezza delle stagioni. Ora che ho nitida, ora che ho nitida la visione delle cose, ora che sono finalmente tornata in me, in me. Verso la fine della puntata, e mi chiedevo se per caso, visto che nel fuori onda mi era stato fatto questo nome, qualcuno di voi ha voglia di farmi velocemente una descrizione o una presentazione di che cos'è fuori luogo. Allora sì, riprendo la parola, così magari adesso un po' meno emozionata riesco a finire il pensiero. Sì, fuori luogo è sempre una risposta creativa ad un momento appunto di negazione del corpo, in particolare a quello dei più fragili. In questo caso ci riferiamo ai giovani, agli adolescenti. È un progetto che si è sviluppato, che si sta sviluppando, cercando sempre di poter fare quello che si può fare in questo momento in modo creativo. Quindi sono delle esperienze di movimento guidate attraverso dei podcast che mettiamo a disposizione degli istituti scolastici, quindi diciamo cerchiamo di andare incontro alla realtà scolastica, perché pensiamo che lì accada tanto e che sia il luogo proprio della relazione, dove il corpo ha bisogno di fare esperienze per apprendere e per poter progredire e rendersi capace di contribuire appunto al nostro stare al mondo. E quindi fuori luogo cerca di guidare attraverso 5 incontri, comunque 5 esperienze di movimento a delle possibilità del corpo. È vissuto un po' come un prodotto culturale, anche se questo termine non ci piace troppo, ma diciamo che comunque in questo momento, non potendo noi entrare all'interno delle scuole, abbiamo deciso un po' di creare uno strumento che potesse essere a disposizione degli insegnanti di educazione fisica in particolare, o comunque degli insegnanti che lavorano più a stretto contatto con gli adolescenti. E quindi è così un prodotto educativo e didattico speriamo presto molte scuole decideranno di utilizzare per rendere fertile, creativo e divertente anche il ritorno a scuola. Questo mi piace molto, perché ovviamente sai che Fedra, non so, nelle mie prime comparse, che credo all'epoca fosse più personificata da Chiara Rosso, io avevo coniato questo termine che è prof is the new artist, perché sembra che il mondo della scuola in questo momento è balzato un po' agli onori della cronaca, nel bene e nel male, no? Con tutta questa situazione. Ma facendo un passettino avanti oltre le grandissime limitazioni attuali, perché so che addirittura c'è nella didattica a distanza qualche difficoltà a far muovere gli studenti perché poi non c'è la copertura assicurativa, e questo è il tipo di situazione. Ma oltre, andiamo, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, come potrà una scuola aderire, partecipare a questo progetto? Allora, noi innanzitutto vorrei dire che effettivamente questo progetto è nato in risposta ad una necessità dei docenti che un po' hanno condiviso con noi questa difficoltà di coinvolgere il corpo in questo momento, anche probabilmente rispetto a delle proprie modalità di concepire l'educazione le ore di educazione fisica a scuola. Quindi, e noi pensiamo in questo caso rispetto a fuori luogo di fare una breve formazione o comunque sensibilizzazione rispetto al contenuto di questo strumento che diciamo condividiamo con gli insegnanti attraverso o un webinar o purtroppo o in presenza se possibile, in modo che poi appunto una volta che i ragazzi avranno la possibilità di tornare a scuola attraverso l'insegnante di educazione fisica potranno poi condividere insieme l'esperienza guidata, facilitata diciamo da musiche, la nostra voce, la facilitazione appunto delle nostre proposte, che però in quel momento hanno la presenza del loro docente di riferimento, ecco. Quindi, siccome il tempo coxico è finito, io mi limito come una mannaia a ricordare che da domani su www.coxospaziale.blogspot.com ci saranno tutti i link per mettersi in dialogo con Ecodanza e, in caso se sia una scuola o un professore, anche per questo aspetto più squisitamente didattico e di sostegno. Ringrazio tantissimo Roberta Zerbini, ringrazio Martina Del Prete per averci aperto a questo ventaglio di opportunità e di generosità anche creativa nei confronti di tutta la comunità per quanto riguarda il rapporto con il corpo e la creatività. E questo era il Coxo 355. Ciao a tutti. E io ero Fedra Boscaro. Io ero per l'ultima volta Chiara Azzurro, perché dalla prossima so blu scuro. E anche noi vi salutiamo. Un grande abbraccio, grazie mille. Performance, ricerca, teatro. From outer space.